Home cooking is good for you. Makes you strong, keeps your vitality. Like my wife says, Tony, don't let me catch you eating junk food on your way. Bello era questo pezzo di Tony Allen, grandissimo batterista. Home cooking, cioè dice home cooking is good for me, cioè il cibo che si cucina a casa per me va benissimo, per me è perfetto. E il nostro Davide Paolini mi ha detto che ci porta a mangiare a casa. Non so bene cosa significa, lo chiediamo direttamente a lui. Ciao Davide. Ciao, ciao. Beh, significa questo, che c'è una tendenza e soprattutto io credo vada bene in questi giorni appunto che non sono splendidi di sole, insomma, che qualcuno è indeciso di spostarsi. Cioè, sì. C'è un ritorno a mangiare a casa, nonostante magari ci sia questa allucinazione mediatica di grandi chef o cose di questo genere. Perché? Perché di solito la gente la settimana si mangia il panino, va di corsa a mezzogiorno, magari la sera si va a mangiare qualcosa, ma poi succede che il sabato e la domenica, o magari anche qualche giorno di festa, c'è una tendenza a riunirsi a casa con più amici, comprare cose di qualità e farsi da mangiare. A me piace molto mangiare con gli amici, devo dirti, ecco, la verità, e mangiare a casa è un è doppiamente rilassante per le nostre vite così, come dicevi, frenetiche. C'è chi mangia il panino, io, ahimè, immensa, ho questo appuntamento fisso, insomma, quindi la casa è un bell'oggetto del desiderio. Allora, dici, comprare cose buone e cucinarle da noi? Sì, cucinarle da noi, c'è questa tendenza che c'è sempre qualcuno che dice che è molto bravo ai fornelli e quindi si esercita, ma questo non lo dico solo io, Questo lo dicono anche le statistiche. Che succede? Succede che quando si dice che si migliora anche la qualità del cibo, perché? Perché negli ultimi giorni della settimana, a cominciare dal venerdì, magari quattro amici, sei amici, chi lavora in ufficio con altri, con amici magari dello sport, della bicicletta o piuttosto della partita a pallone, alla sera invece di andare a mangiare fuori al ristorante, molti preferiscono fare questo, spendere nel cibo, quindi spendere su quello che acquistano molto di più di quanto non lo fanno durante la settimana, perché magari anche a casa la sera si rientra, però si fanno cose molto veloci, visto che si rientra tardi, visto magari che poi si è anche stanchi. Invece venerdì, sabato, domenica c'è questa tendenza. Io credo che in questi giorni che appunto c'è questo allarme tempo, faccio una parentesi su questo, secondo me la gente si lascia troppo influenzare dalle previsioni meteorologiche, perché molte volte sbagliano, ma non solo, ma uno viene condizionato. Beh, se io voglio andare da qualche parte, ci vado, se piove pazienza. Anzi, potrebbe essere più affascinante una destinazione con la pioggia, perché no? Eh beh, appunto, cioè, vabbè, non nel Pineto, ma insomma non in Maremma, magari in Maremma si potrebbe anche andare. Però ecco, io credo che questa tendenza sempre di più sarà importante. Lo dimostrano tutte queste, diciamo, nuove attività che sono nate, cioè di fare da mangiare a casa anche per terzi, e quindi ora ci sono problemi dal punto di vista, se vogliamo, fiscale, però sempre più ha preso diciamo, campo questo fatto che uno lancia su internet che la sera XY ci sono 30 persone che possono andare a mangiare a casa di qualcuno, ovviamente pagando. Ecco, questa è la dimostrazione che c'è la ricerca di un qualcosa di diverso, che non sia il ristorante, che non sia la pizzeria, che non sia l'osteria. Tu hai provato, Davide? Io no, andare a queste cose non ho ancora provato. Dovresti andare però senza svelare la tua identità, dovresti andare in incognito per provare. Sì, potrei andare anche lì. C'è anche quest'altra organizzazione che si chiama Le Cesarine, che anche questa è un po' più, come posso dire, organizzata, e credo che abbia chiesto anche un riconoscimento. Sì, sarebbe molto interessante, ma io molte volte vado nei posti a mangiare facendo prenotare le persone che sono con me. Poi purtroppo non dico che sono molto noto visivamente, che tant'è vero quando qualcuno mi riconosce dico mi hai visto alla radio. Sì. Quindi ridendo e scherzando. Però io vado molte volte non presentandomi. Certo che andando in una di queste case, però non so se bisogna dare veramente le generalità quando si va a mangiare così. Forse in mensa sarebbe molto più interessante andare a fare una ricerca sulle varie mense. Però tornando al nostro punto, io credo che sempre più si mangi nelle case, magari sul fine della settimana, e non certo attingendo dai libri degli chef, cioè dalle ricette degli chef, ma sempre molto più semplicemente. Poi c'è sempre qualcuno che dice di essere un grande cuoco e viene sfidato. Io credo che in queste giornate ci siano molti amici che si ritrovano stasera, domani sera o lunedì a mezzogiorno, che si ritrovano e dopo aver fatto spesa, comprato delle cose molto particolari, oppure di ritorno dal sabato alla domenica portano delle cose che vengono acquistate in giro o la settimana prima, che poi si fanno assaggiare anche agli amici. Quindi è una tendenza secondo me che prenderà sempre più piede. Spero di non sbagliarmi comunque. Io sono per l'ultima che hai detto, cioè comprare le cose in giro e poi farle mangiare agli amici. Solo che siccome mi capita anche di andare in posti improbabili, io ad esempio quest'inverno avevo organizzato una cena di salumi bulgari, perché ero stata in Bulgaria, quello ecco. C'era. Perché no? Erano anche buoni. Com'è andata? È andata molto bene perché erano molto buoni. Devo dire la verità, il salume bulgaro è piaciuto. Molta diffidenza, però alla fine è piaciuto al pubblico, è piaciuto ai miei amici. Dove ci porti poi per qualche itinerario, Davide? Perché è l'ora dell'itinerario. È l'ora dell'itinerario e direi che oggi, combinando il fatto meteorologico, non ridere, ma io voglio combinare le beauty farm, sì. Voglio combinare le beauty farm e le terme con il mangiare. Senti, devo dire che però, meteo o non meteo, con una giornatina così uggiosa in beauty farm io me la farei. Ecco, allora io do due tre una serie di indirizzi. Mm-mm. Voglio cominciare dalla mia amata Romagna. A Bagno di Romagna, che è un posto bellissimo perché, diciamo, ai piedi di lì si può arrivare sia sul Fumaiolo che sul Falterona, quindi si può andare, si possono fare delle passeggiate bellissime. Ci sono delle terme, tutte basate sull'acqua sulfurea, e devo dire che sono veramente molto, ma molto ripaganti. Però c'è anche un ottimo ristorante, addirittura un albergo, appartiene a un ristoratore stellato italiano che si chiama Paolo Treverini, e dentro c'è un ristorante gourmet, quindi uno può fare le terme, si può veramente riposare, rilassare e poi la sera andare a mangiare in questo splendido locale che è di Paolo Treverini, dove in stagione ci sono funghi e tartufi, ma soprattutto l'albergo di Paolo Treverini offre una cucina che io ho sempre giudicato la migliore. Quindi non è un albergo 5 stelle lusso, però devo dire che la colazione è 5 stelle lusso. C'è di tutto. Bello, bello. Tre tipi di prosciutto, c'è il culatello, c'è lo zabaione fatto caldo, ci sono le marmellate locali. Insomma, veramente quando uno esce di lì, probabilmente a mezzogiorno non mangia più. Dalla Romagna vi porto in Lombardia vicino a Brescia, vi porto all'Albereta. L'Albereta era, diciamo, questo luogo, ristorante famoso, dove un tempo c'era Gualtiero Marchesi, ma l'Albereta ha una splendida beauty farm, veramente bellissima, un eccellente albergo. Se si vuole, dentro si possono fare anche due giorni sotto la cura Chenot, quindi se si vuole fare bagni ed altro e anche, diciamo, mangiare in maniera particolare, si può mangiare con Chenot, però si può mangiare anche con le eccellenze del cuoco dell'Albereta, che si chiama Battista, oppure si può mangiare anche nel bistrò. Quindi qui ci sono addirittura ben tre scelte. Devo dire che tutto nasce dalla cucina, da una cucina centrale, quindi non preoccupatevi, cioè la cucina di Chenot io l'ho provata in questo locale. Anch'io, io l'ho provata una volta, sai. E devo dire che è piacevole, sì, molto sì. Gustosa, e quindi non è i soliti beveroni che si pensavano di un tempo. No, molto leggera ovviamente, però gustosa, non punitiva, diciamo, non punitiva, provato anch'io. Diciamo che pulitiva, non punitiva, ma pulitiva. Pulitiva, mi piace, pulitiva, ok. E io ho fatto diversi esperimenti in questi anni, lo ammetto, ma per divertimento, poi ve ne dirò un altro. Poi vi porto alle terme di Saturnia, vi porto in quella zona della Maremma bellissima in provincia di Grosseto, dove veramente di terme ce ne sono tante, perché sono le terme di Saturnia, dove si fa il bagno in questa piscina, anche quando fuori c'è la neve, che sono straordinari. Di vicino ci sono le terme di San Casciano dei Bagni e poi anche Bagno Vignoni, dove ci sono tutte le sorgenti termali. Allora qui c'è un'altra tappa gastronomica importante, da Caino a Montemerano, dove c'è una chef donna veramente di alto livello che si chiama Valeria Piccini, che fa una cucina molto sapida della Maremma, e quindi dopo aver fatto dei bagni, secondo me ci vuole una cucina sapida, e molto corposa, ma trattati da una mano elegante come lo può essere una donna in cucina. E qui si può mangiare anche il panino al lampredotto, però diciamo servito sul piatto in maniera diversa da quello che si fa a Firenze. E anche qui devo dire che oltre le terme, oltre il cibo, ci sono delle passeggiate meravigliose, perché questa è veramente un'area importante, veramente un'area bellissima da vedersi, da visitarsi e da scoprire anche dei prodotti davvero unici. Ma ci hai fatto venire una voglia di andare in questi posti, ne hai ancora uno da segnalare? Ne ho tre, però me ne segnalo uno. Dai, cominciamo con uno. Molto. Vi porto in Piemonte, a Relì San Maurizio, dove c'è una bellissima beauty farm, c'è uno splendido hotel con delle piante secolari, si può anche diciamo stare fuori se non piove in maniera anche diciamo divertente. C'è uno straordinario paesaggio che dà su dei vigneti, e poi c'è uno dei miei ristoranti preferiti, che guido da Costigliole, dove Andrea, che è il patron, Andrea Alciati, figlio della tradizione degli Alciati, presenta una classica cucina piemontese, ma veramente moderna, che è ispirata alla madre, e si mangiano dei plin con il sugo d'arrosto, insomma, che con questo tempo così, secondo me, stanno benissimo, perché ritemperano la gola e ritemperano anche lo spirito. Davide, rifacciamolo. Sì, dai, l'abbiamo ancora Merano, un minuto. Merano, grande classico. Grande classico. Sono le terme di Merano, c'è appunto la clinica, chiamiamola così, l'albergo di Chenaux. Ci sono però dei negozi gourmand Disney nei portici del centro, che fanno venire voglia di non tornare dentro diciamo, alle terme o d'altro. E poi c'è un ristorante che si chiama Sissi, di un piemontese che ci ha piantato in quel posto, cioè a Merano, e devo dire che anche il locale è veramente molto molto bello. Beh, bellissimi. Io mi sono già presa un paio di appunti, non dico quali sceglierò, ma già ce ne sono un paio che voglio visitare. Sono arrivati i messaggi che criticano i miei salumi bulgari. No, dovete fidarvi, non sono improbabili i salumi bulgari. I salumi bulgari si possono mangiare. Appunto, bella questa tendenza di andare in vacanza a portare a casa dei cibi, come ci diceva Davide. Io non sapevo fosse una tendenza, lo facevo così, pensando che fosse una cosa semplicemente divertente, comprare i cibi quando si gira per vacanze o per weekend e poi gustarli con gli amici. Quindi se siete da qualche parte, c'è qualche specialità, noi veniamo, mi chiamate, io arrivo, vengo anch'io ad assaggiare. Davide, grazie per essere stato con noi, ci troviamo il prossimo sabato. Grazie a Bene, Davide Paolini. Presto.